10. C'è nessuno. Poi suona il campanello, Natali. Bisogna cambiare apparato per suonare il campanello. E comunque non c'è nessuno, come sempre. E qualcuno già c'è sempre. Ciao Gianfra. Ciao Natali. Non sei andato in giro. Oh, e cosa va in giro con questo tempo così? Beh, insomma, non è... Oggi è già una bella giornata, forse adesso funziona, anzi decisamente funziona. Che pazienza ci vuole, e tu non neanche te ne immagini. Cosa c'è un tratto? Quanta pazienza, adesso io, sì, quanta pazienza ci vuole. C'era il televisore troppo alto. Perché non ti fa il coso? Guarda, vengono degli assessori che costano molto poco. Ti fa lo spinotto, no? Ti metti questa scatoletta, una scatoletta piccola, io ce l'ho un paio, e l'attacchi alle cuffie, alla presa a cuffie, dopodiché l'altra scatoletta la porti in giro e praticamente senti l'audio, in caso di necessità anche il microfono, no? Anche camminando da qualunque parte. Così almeno non si sente la televisione. E mia moglie, perché le cuffie non ce le ha? Volendo si attacca le cuffie, no? Telefono? Il tuo telefono? No, no. Falso allarme. Falso allarme. A me serviva... Servivano delle prove, delle prove. Però... Non è così semplice. Secondo che prove già si possono fare? No, ho collegato degli apparecchi per la copertura generale, solo che la prova, vabbè, in digitale non c'ho problemi, no, lo fanno quasi tutto loro. In analogico però da sempre casini, perché il sistema l'hanno fatto per il digitale, non per l'analogico, quindi c'è qualche problemino. Però sto pensando, quindi come si può fare? Ci vorrebbe un'idea. Non devo controllare nel cassetto se c'è qualche idea di riserva, quindi potrei, però tu sicuramente puoi fare ascolto, e questo non è male, giusto? Sì, ascoltare, sì. Dunque. Vabbè, lo devo fare per forza in VHF, questa cosa, quindi... Ti chiamo sulla 500, però, perché sono a 525 e poi rovinano il piano. Tu mi puoi rispondere anche qua, però io mi devo allontanare un po' a distanza, vediamo un po', fammi accendere un po' di cose, girare la manovella, abbassare 7 interruttori e poi dare la corda o la molla. Fai. Ciao Antu. Buonasera. Ehi, ciao Antu, buonasera. Sì, non ti ho riconosciuto. Non mi hai riconosciuto? Una parte di sé. Ehi. Ciao. E Gianfranco è impegnato, sta facendo cosa? Nella facciata. Quanto sta arrivando mamma mia dalla loro parte? Santiago 8 Radio 5. Sai che provo una modifica, due secondi. Sì. Adesso ora quanto arrivo, mamma mia. Vai. E 9. Sì. Natalino ci sei? Sì, sono qui. Dunque, aspetta. Porca miseria. Vabbè, no. Aspetta che sto girando. Ecco la mancetta. Allora, Natale ci sei a 500? Aspetta un attimo, a 500 vuoi farla? Sì, così, se, almeno non ci, forse non ci rispondo a 525, perché devo fare una prova un pochettino solo di voce, no? E tu devi stare attento a come si sente la voce. No, non è tanto, non ci interessiamo del segnale, ci interessiamo della qualità, se è assolutamente, totalmente comprensibile. Poi può essere stonata, può essere anche baratolata, tutto quello che ti pare. Però deve essere assolutamente comprensibile. Ok? E aspetta che lo metto lì. Ma infatti c'è un problema, vado a 525, non c'è problema. C'è un problema qua. Aspetta un attimo. No, no, dai, lascia stare, non toccare niente allora. Mettilo su 525, per me è lo stesso. Ok. Ci sei già? Ti dico, prova un attimino con la verifica prima, se mi senti, se non vedi tutto inutile. E ti rispondo qua io, dai. Ovviamente, sì. Fondo scala qua. No, quello è assolutamente relativo, non interessa. La voce? Buona. Oh, cazzo. Allora, controllo lì. Di ritorno. Ok, controllo. Cosa di attività? Perfetto. Controllo satellitare. A posto. Ok. Allora, ti chiamo tra poco. E vediamo un po'. Ripeto, solo la voce, il segnale non ce ne frega niente, il segnale qua non esiste. Ok? Sì signore. Vado, eh? Allora. La voce è un po' barattolata. Ti stai finestrando? Buonasera. Aspetta perché mi ero allontanato, sono dovuto andare fuori per evitare eventuali ritorni. La voce, ho capito cos'è, barattolata. Eia, dentro una tambulara sembrava. La chiarezza? Già era comprensibile, però era rimbombante. Ho capito, forse è troppo amplificata, no? Eia. Come diceva quello lì. E qui che casca l'asino, è sempre lo stesso problema sui sistemi analogici. Digitale è uno scherzo, metterlo a posto. Come invece è un bagno di sangue, come sempre. Non posso fare neanche in diretta, perché in diretta poi nascono dei problemi, perché manda disturbi a cucù. Vediamo un po', Natalie, faccio una seconda prova, molto distanziata, stavolta dovrebbe essere spalla. Vediamo, abbassare anche il volume dell'apparato che dà la voce. E vediamo cosa succede. Quando sei pronto, dimmi ok, io mi riallontano e riproviamo. Ok. Vado. Vai. Barattolato, sì. Mannaggia questi barattoli. Sono micidiali questi barattoli. Aspetta che... Ecco, adesso è escluso. Non è così semplice. non è così semplice. Quindi ecco, andiamo sul barattolato e ok, è meno come prima. È tutta strappata la radio, capito? Come se tu vada a strappare. Quindi è troppo potente. Ehi. Troppo potente, hai detto. Vediamo un po', facciamo una chiamata in diretta. Ah, così è di lusso, così è buona. Ok, non se ne cava piede a volte di queste cose. Ecco, però torniamo a bomba, la comprensibilità, cioè capisci quello che dico senza problemi o ti devi sforzare? No, capisco senza problemi, è che la truppa era tutta barattolata, la radio forte, come strappata. Effetto ambiente, cattedrale, tipo Claudio quando mette al massimo. Tipo così, da. Però era molto molto strappata, più di Claudio. Quello è un problema. È un problema proprio progettuale, quindi non si tratta di avvicinare, allontanare, è un problema proprio che va, anche se abbasso inutile, perché vediamo un po', 1, 2, 3, prova, anche se abbasso inutile, niente. In digitale va benissimo, però lì lavora in casa sua, è un problema, devo chiamare l'ingegnere, perché adesso ho pure riprogrammato, però se così, questo è un problema veramente. Questo è un problema. Un problema un po' serio. Come si può fare? Un trasformatore di separazione è nata lì. Oppure un sistema ottico modulativo di modulazione. Io non so cosa stai facendo e quindi non posso esprimermi, però guarda, dal giorno alla notte, come radio, quando la usi, l'ultima che ho usato è bellissima la radio, però quando fai quella della voce strappata è brutta, è una brutta radio, non è bella chiara come quella che hai fatto poco fa. Sì, ho capito, però è lì. Volendo posso fare anche una prova facendo fare tutto a lui, allora, il problema è molto semplice, ci sono due sistemi, il primo sistema lo gestisce tutto l'apparato, l'altro problema è computerizzato ed è a grandissima distanza, praticamente in qualunque buco della Sardegna, se non dico sott'acqua ma quasi, riesci a comunicare, a prescindere dalla distanza. Però quando lo fai in analogico si fanno un po' a pugni, capito? Escono le botte. Io devo trovare un sistema per farli funzionare tutti e due, d'amore d'accordo, però non sembra che non ne vogliamo sapere. Si odiano. Digitale con la logica non si possono vedere. Fanno a pugni, sono due sistemi diversi. Infatti, faccio un esperimento molto azzardato, molto proprio a volerlo male. Lo faccio qua, praticamente è un collegamento se fosse attivo, in fondo il 27 è quasi un tentativo disperato, da disperati, giusto perché c'è lo squelch, però ugualmente riuscirebbe, che ne so, a far squadrare con Cagliari senza problemi. Vediamo se qua è proprio uno schifo totale e assoluto, poi una M, figuriamoci. Però non so, non ho mai provato qua, vediamo l'apparato cosa mi dice, se mi dà, faccio una provetta qua e vediamo. E possiamo provare anche in FM. Cambiando canale, Natalie, così non ci sono disturbi. Infatti, dammi una frequenza perché magari qui disturbiamo. Canale 8, 9, canale 2. Dammi una frequenza, la frequenza, che così ci vado subito. 26, aspetta un attimo, ve la cerco. 26985 sarebbe il canale 3. Ok, allora 26895, così è. 9 dovrebbe essere, 9. 27 985, così è. No, 26, il canale 3, 26. Ah, 26 985, così è. Sì, ti chiamo adesso. Natalino, Natalino, Natalino. Oh. Sì, non ci sono spiegati bene. Aspetta un attimo, perché ci sono dei disturbi. Gianfra? Sì, mi senti? Sì, che ti sento, sono con l'altro apparato che arrivo prima al canale. Ah, sei col canalizzato quindi? Ehi. Quindi se ti dico canale 3 puoi andare sul 3. Sì, signore. No, proviamo canale 3, dai. Yeah. canale 10. Sono tutti scesi. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Chi sei? Io? Io sono Gianni. A pari tu sei? Gianni sono, tu, ubriaco. Ciao Gianni, mi dice il capo, sono imbriaco così. Beh, sta a posto? Sta a posto, niente inutile, Gianni. Gappa. C'era anche Cristian? Non ho capito. Ciao, avanti da presto. Gappa. Ciao Cristian. Ciao Cristian. Io ho il QRM alto perché ho il paretto acceso. So. Se no già ti avrei sentito. Non ho capito perché ti ha parlato solo. Mi faccio ho detto che ho il QRM alto, se no avrebbe sentito anche a Cristian. Perché il paretto praticamente c'ha l'inverter e fa di gasino dentro. Ah ecco, faccio capire. Ma non è questi quei paretti che vengono adesso i cinesi che praticamente hanno il pannello solare che tu devi mettere l'elettricità nel batteria dentro. Caricano col pannello solare durante il giorno e poi tu la notte la guidi per la notte. Mi guardi un poco di gasino. Capito? Io tutto a letto a casa, tu ti fai a letto. Ma questo qua è 70 72, tu lo applichi dove vuoi, è interessante che ci sia un punto di luce e lo carica tutto il giorno, poi la notte lo... Sì, l'ho visto, c'è anche da 300 watt quel paletto anche. E gli ci dici la pensavo? L'ho visto, da 300 watt, cioè, ma stiamo scherzando, se non so, 300 watt di luce. Lo so. Specialmente adesso perché ho messo per 40% la luia. Gianni! Dimmi a tu! Ma ho aumentato il segnale ora! Prova! 2-3 prova! Se 9, quanto tempo è? 9-10! 9-10 ero prima! Sei un po' più avanti 9-10, 9-15, dai! Però già va bene! Ora sono con la massima potenza. No, prima è 9,5 tu. Sì, 9,15, sì, ho aumentato di 3 segnali. Ho aumentato un po', vero? Sì, 3 segnali, da 9,5 a 9,15. Cappa. È già andato in sala. Cristian, non lo sento, c'è un QRM a 1000. Sì, ci ha fatto sentire, non ti sente anche. Cappa. Vale ancora. Dove sei? Qui. Diciamo, sotto casa tua quasi, dai, pulito, no? Ah, capito. Ma quello che stava arrivando un po'. Però tu questi cazzo di cose quanto casino che fanno. Precisamente alla CRCS. Cosa sarà la CRCS? Per il sportivo comunale. Non lo so. Ma vabbè, comunque. Ti arrivi bene, dai. Io se ti chiedo bene. Antonio è un po'. Diciamo. Con la voce un po' bassa, ma deve essere perché è deluso da. Vabbè, io sono lontano da voi. No, adesso sentiamo bene come fanno stare. Io lo so. Ma perché prima il segnale non era forte? Non andava bene. No, è proprio la voce bassa, forse ti si allontana. Cristian dice 27, però tu non ci ha sentito così. Io ho sentito forte e chiaro, a voglia. Tu quanto anche sai, lo senti? Lo sento in mezzo al QRM, se spengo la luce sì, lo dovrei sentire, non ho problemi. Ma non questa luce, no? Cappa, vabbè, mandano furia quei cazzo di cose. Frega, se non c'è problema. Tanto che tra poco, mi sono andato a 10 minuti e chiudo tanto. Dove stai andando a comprare? Piazza piccolino, secondo più piazza. Cavagara. Ma adesso non ci abita nessuno? No, nessuno. Adesso a me gli metto un po' di mobili e l'arredo. Ah, è vuoto. Un vuoto, non c'è luce né acqua. Ho capito. E te ne vai di abitare? No, lo uso come casa d'appoggio. Ho capito. È importante risparmiare. No, è casa, sto lavorando a Sassa, mi fermo lì, vado a cogliere al volo, posso andare a casa, che abito, sono stato a casa Platamona. Compugno, sei in ascolto? Chi è che chiama tu? Frank. Chi è, Avaro? No, stavo cercando Compugno, buonasera. Buonasera, con chi abbiamo l'onore di parlare? Frank, sono. capito chi? Frank! Frank! Ciao Frank, sei nuovo? No, non entro quasi mai! Ah, il Proponio non è entrato, non lo so se sia nascosto, provo a vedere. Prova un attimo. Bene, ok, ok, ciao. Gianni! Eia! Ma cosa va a fare che pregiate per il 30 oggi? Cosa? Ma ci faceva la tua macchina perché tu devi fare il 30? Non era la mia. Oh. Ma chi è quello che stavamo durando, Gianni? Non era la tua. Quella? La Challenger, non era la tua. Cioè io ho la Challenger, ma no, è nera, non è rossa. Ma io sono la Challenger rossa, bellina, iniziale. L'RT pure. Perché ti ha aperto, anno? Più o meno. E ho messo un pezzettino lì, c'è solo da Gorizia, una bella Challenger rossa, modello RT. Ma l'hanno riaperto, l'ha detto, la viabilità, ma non aperto. Con tutto no, ma un pezzo sì per. Sì, quello lì sempre, arriva a fino a un pezzo e poi girato, arriva a lì. Ma salendo su in cos'è via, cos'è che la via che sale, cioè salita, esce da Gorizia. Eh. Ok, dai, io vi devo lasciare, ce la risentiamo alle prossime, ciao ciao. Magari ce la risentiamo da casa, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, ci sentiamo. Ma com'è la macchina di Gianni? Una è presa ma poco come macchina. Vabbè, io ce l'ho nera, ma ce l'ho rossa. È sbagliato colore. Cioè quella fa la minorino 4 al litro, se decidi. Se c'è quella macchina vuol dire che c'è anche su di avere la benzina, non è che. Magari hanno il fornitore. È molto probabile, ci sono di più di macchina, poi ma è troppo bella però. Beh, sono macchine che se le permette sono gente che assume. Posso spacciare tu? Sono proprio il mestiere. Sono maniaci. Sette gusie che ce li ha. Posso immaginare. E adesso che si scicca? Allora, in capisci mia ho detto anche la Mustang, Porsche, ma erano altri tempi, quando la pensavo stava a posto. Ma cosa mi fai? Intanto quello che fa, quella fa un'altra macchina. La macchina serve solo per trasportare la macchina all'altra, non per farti vedere che la macchina gruscia. Come fa un CT per la quadrata con la Ferrari? Guarda, beh, io ci ho fatto lunedì. Cioè, se ritorno, ritorno, sai con quanto di gasolio? Ehi, ma ci credo. Con 10 litri di gasolio, andate e ritorno, sai se lo ritorno? Non bene. Sì, anche io a gas vado bene, veramente. L'altro giorno ho fatto il pieno, 19 litri. Ma sai scherzare? Ce n'era un po' ancora, però 19 litri vanno anche bene, ed è aumentato, è quasi un litro arrivato. Ma io una cosa, ma tu sei preso di gas e hai preso la macchina? Sì, sì. Ah, tu sei proprio le piccole macchine, no? Il grande. Sì, c'ho quello della ruota in scorta, quello non so. Sì, ma lui è piccolo però, perché io ce l'ho, ma il mio è 400 litri di bombolone però. A me ci sono 50 litri di gas. Ma sono io 50 litri. Allora è uguale, solo che il mio rotondo magari è più lungo, ma tu l'hai messo tu. Con il mio è rotondo, lo stesso, l'ho messo io. Ah, da Calvino le messo. In gamba Calvino, dai. La facciamo veramente in gamba, molte volte dicevo, quando di cui va riccato, quanto devo dare, vai e portami in gente, ciao. Mami, l'ultimo lavoro l'ho fatto, quando sarà due anni fa, la macchina è sempre perfetta, sempre a posto, quando... tranquilla, guarda, cammina meglio a gas che a benzina. Anche la mia, cammina più a gas che a benzina, e praticamente, adesso lui ha fatto un filtro, perché che serve per consumare meno, lo sai? È super filtro, lo so. Quello lì praticamente l'ha ideato, l'ha fatto lui, l'ha inventato. Forse mi intanto andare a fare il tagliando la troppo con il tagliando la macchina e non sapevo che fine c'è. Ma quel pittore lì fu di quanto si cambia, nei 20.000 km come là? Non te lo so dire, guarda. Io non ne ho mai messo su quel pittore, ma a me va bene, è un po' va benissimo, la mia va benissimo, non posso dire nulla. Il gas lo metto sempre a carica perché... tutti i gas misti, invece quello di carica e quello di portatore se sono troppo. Cosa? Non posso fare di non ho capito perché Trufaldini pure, per i miei gusti. Chi? Quelli di Canega. Perché? Quella piccola con gas che è stato messo sul battuglio. Sul battuglio del gas? E io? No, vabbè, il pieno mi veniva sempre, cioè quando non faccio pieno pieno, massimo 15. Beh, dice che chiudo, sono andato a casa, dai, ci andiamo più tardi. Vabbè, ciao, ci sentiamo. Attenzione, canaletta 10, c'è qualcuno. Don Fogno, mi ricevi? A canale 7 c'è qualcuno PNR. Ci sentiamo là. Chi è? Chi è? Ma sì, doppio room. Eia. Sono Frank, sto provando il PMR. PMR? Questa è la 27. No, c'ho anche il PMR, ma non c'è nessuno. Non lo so, io non è un PMR. Perché non ce l'hai tu il PMR? No, negativo, ho venduto. Vabbè, legale come la CB, perché non sfruttarlo? Cosa? No, non ho scoppiato. Ho detto che l'ho venduto, non ce l'ho più. Ah, ok, va bene. E' appagato. Non c'è mai nessuno che non tira a fare. Una volta, dai, ci sentiamo. Va bene, ciao. Ciao a me. Ciao. Sì, ciao Antonio. Oh, ciao, buonasera. Buonasera, come stai? Bene, bene, e tu? Da un po' che non ci si sente. Sì, avevo un po' di casini, ogni tanto mi mettevo in ascolto, però in realtà poi non facevo mai in tempo ad entrare perché avevo poco tempo. Capo mio, sono ben rientrato, adesso vado a mangiare. Ma ce la risentiamo dopo. Sì, capo, buona carica allora più tardi. Cazzo, mi ha fatto piacere sentirti, è una roba che non ti sentivo. Anche a me, Anto. Ciao, buona carica, a dopo. Ciao. Salito il segnale dalla passante a fondo scala e non riuscivo di radio, allora ho preso lo staccato e ci ho messo dove volevo vigilare. Adesso ho chiesto a Salverio, si fa vedere, mi porta la palla di più su così controllo la resistenza che monta vicino al modulatore, così almeno gliela metto uguale e faccio la prova. Figurati, qua mi sta arrivando, sembra con la stessa radio, stiamo parlando Santiago di sì. La radio è Super 5, ma il segnale sì. Anche tu stesso problema c'hai di ricezione. Ricezione è ottimo, ma il segnale è balordo, capito? È balordo, adesso non ti dico una fesseria, per esempio, con l'altro che tu sai. Gianni mi arriva 9.15, 9.18, si usa questa qui, ma arriva a Santiago 9, fino alla differenza che c'è. Dovresti controllare il clima allora tu all'interno. Se c'è l'apparecchio come questo che sto usando io adesso in questo momento, c'è un trimmer, c'è, devi regolare quello. C'è scritto AM, FM, SRF. Io capo, non sono venuto in tempo, troppo. Adesso già va bene. No, pensavo che sta parlando con te, quello con lo spagnolo. No, non sto parlando con me. Faccio solo la prova, già lo sento bene già. Sento a tutti, il QRM ce l'ho Santiago 1, 1.5. È solo una questione dello smitter in ricezione e basta. Pure per il resto va tutto bene. Invece qui stanno arrivando Santiago di 7.5, figurati, la radio è la super 5, figurati, qui arrivano tutti sparati. Ma qui su Love c'è sempre stata propagazione, è un canale che in pratica utilizzano spesso, adesso non so se sono spagnoli o se sono della parte dell'Argentina che parlano e che sentono benissimo. Okay. La signora sta a posto, sì. Sono lì che stiamo chiamando sul 10. A me, se io sono sul 9, come fa a chiamarmi sul 10? Non so, io non lo lascio libero. Se ci sono, c'è la preparazione, siamo solo noi due, io e Marino, se non vedere c'è lo libero. Sì, il nuovo è la Cerito dell'emergenza. Sì, e chi viene a pigliarci? Quello del compito di una carriola. Allora, chiama il dottore sul 10, ciao. Ho capito. Beh, sul 10, Mari. Ciao, Teo. Ehi, ma ne sto uscendo. No, sei fuori frequenza. Guarda a vedere adesso. Adesso sei già entrato, anche perché mi chiamavi su 10, ero sul 9 io, Marino. Avanti, Marino. Allora, ben alzato, e allora, come sei fuori frequenza? Sono 75, legge giù. No, la radio voglio sapere se è limpida, se è buona. Ottima, ottima. Col farina va benissimo, Otto. Con Pugno? Va benissimo, ok, grazie, ciao a tutti. Sta scrivendo, Otto, va benissimo la radio comunque. C'è qualcuno che sta chiamando, buonasera a tutti. Ciao Antonio, già ho sentito che uno mi sta chiamando. Ciao, te l'avevi sentito, avanti che mi chiama. Pompogno, mi senti? Ehi, avanti, chi è? Voglio fare la prima prova di PMR. Vuoi fare la prova in PMR? Sì, comunque sono Frank. Sei Frank? Sì, già il PMR. Sì, già un giorno facevo il PMR, da quando faccio il tecnico. Prova andare sul canale 6, se non c'è la vigilanza notturna, a mezzo alle balle, sembra un fogliaio sempre. E che canale? Canale 6, la frequenza adesso non me lo ricordo la verità. Tu vai al canale 6 in PMR, se c'è un PMR, oppure che apparecchio stai usando? Un PRMM, bloccato niente. PMR. Attore, guarda che sono ospedale sul PMR. Sul 7, ma su 6 no, su 6 c'è la vigilanza notturna adesso, c'è il portierato, c'è uno si chiama Fabio, meglio di me risposto, sono qua, dice, cosa, dimmi che, perché mi stai cercando, ma tu sei Fabio che sto cercando io, detto, sto cercando Fabietto, ah vabbè parla tranquillo, me. Ok, sì, allora, la frequenza 486 0 75, non mi sbaglio. No, 0, mi sembra 68. Un attimo, te lo dico subito che c'è la frequenza, te lo dico subito. Ma poi non lo so, l'hanno fatto. Ehi, Antonio, riprenditi un attimo. Oh, oh. Allora, canale 6, 446 0 68 75. Io sono già sul 6, 1 2 3 4 5 6. Ai. Ai caro, tu sei che mi Beh, allora, buonasera a voi, buonasera anche a Marino, mi. Ora, strano. Ora. Vabbè. Ora. Chi è che fa macello qua? Antonio. Avanti, c'è dove, Anzola Mare. Marino, sono Anzola, avanti, Anzola. Cappa. Bisogna che me lo possa mai dare anche tu, il suo bozzo. Non sta andando tanto bene, no? Come va? Cosa è successo? Uscivo di colpo, cazzo, sentivo proprio maschiando. Allora dici dov'è? Oggi sono passato vicino al tuo QTH lavoro. L'ho vista quella cosa, va bene, ottima. Cappa, io già andrà bene, già va bene. No, ogni tanto questo microfono c'ha un problema, è il cavetto sicuramente, dove c'è il coso del microfono, bisogna che lo possa abbagliare anche uno, che se ne intende, capito? Tocca, non tocca. Avanti, Antonè. Sì, magari è un spinotto che sta meglio, come lo tiri un po'. Prova ad aprire lo spinotto e controlla gli agganci. Tanto c'ha 8 fili, cioè non 8 fili, c'ha 8 posizioni, quindi i fili mi sembra di aver 6, se non mi ricordo male, compresa la limitazione 9 volts. Cosa, Antonè? Come si dice? È quello... dovrebbe essere il cavetto proprio quello che va al microfono, capito? Non quello che va alla radio e cosa, l'altro. Ah, ho capito. Sa che mala sorte ha, boh. Ma adesso stai scendo perfetto. Che c'è questo c'è Frank? Frank, c'è 6, 27. No, c'è, adesso passi chiudo. Ok, arrivava. In cosa, in PML, da Trentino, Muglia. Vabbè, io sono aperto, con la direttiva io guido. Da Trentino era, arrivava anche qua. Sì, a Trentino era. Ma qua arrivava a 7, dai. Vabbè, Popolo, ci sentiamo, ok? Ciao. Frank! Ehi, Frank, mi sta chiamando Marino. Ascolti, Frank. Cambiamo 9, Radio 5. Perdona, non t'ho copiato. Quello sì. Sempre fuori casa li sono. Ok, ciao, grazie, Frank, ciao, grazie. Ciao ciao! Capa, a me mi senti Frank? Cambiamo 9 Radio 5, è però un po' saturo. Saturo? E come saturo? No, adesso va bene. Capa, già ti sento pure gli arrivi qua a Sassari. Bene, saluto buon pugno. Ciao, saluto numero 1. Grazie, per il saluto. Magari. Vai giù l'antenna che... anzi l'antenna del parole vuole cambiato. Adesso appena migliora un po' il tempo. Se a maggio non succede nulla che va al contraerea già cambio palo. Ti vogliamo presidente? Magari. Bene là, ciao, ciao ciao a tutti. Ciao ciao. La contraerea azzurro, bibù. Cazzo, siamo povaracci, siamo, e voleva la guerra, ma chi lo si ammazza, ma che persone ignoranti. Tutto vuole, non capito, fare la Russia come una volta, arrivare fino alla Jugoslavia, per la Gira si piglia anche metà della Germania, questo vuole il gabavino. Sembra Hitler, lui la vendetta sempre, cazzo, prima era uno di coglione, adesso ne ha levato un altro, cazzo. Per carità, ma stia attento perché c'è la stazione un po' alta stasera. Ogni non zio della tornata ci avevi. Vuole controllato, vuole. Ehi, a capo, c'è un americano. Mario! Tu vuoi se sta che chiamano lei, ciao! Avanti, avanti! Italia, Italia! Avanti qua il quartiere americano, date veloce tutti! Cos'è quello qua di Velasse? Ui, come va? Ui, ebbe! Cos'è Cristian? Ma dove sei adesso? Io, sono andato da qua. Ah, già va bene, ti stai comprando la pizza via Fasco, ho capito, avanti a tu. Uè, Cristian, buonasera. Buonasera, non l'ho conosciuto. Quello di prima era da Trentino, era. Ma per la pizza sento io, No, già si sentiva, volevo dire da un'antenna buona, non lo so, bisogna che era un torello. Mentre ero con Bino, la testa. Ha comprato questo apparecchio da la media, no, mi cosa media cosa mi ha detto. No, non hai capito. La tenna ci vivo, lui che ce l'ha buona, solo qua non arriverebbe. Ah, la CB sì. Cioè, senz'altro, ma ora è in macchina, non lo so. Aspetta, 3 secondi di risposta, vado a controllare la carne, magari si bruci tutto. metti un po' di peperoncino con la casa. E avanti, Cristian. Cazzo, se metto il peperoncino mi sa di fare un cielo sta occhia. Avanti, Cristian. Io sono piccolo piccolo. Già non sei piccolo piccolo, vai, io. Guarda, io sono ottava, ti ascolto abbastanza bene, dai. Mi sento io, mi senti tu, vuol dire che ascolto bene pure io, dai. No, va bene, non ti lamentare, avanti a tu. È logico che ti sentiamo bene. Allora, la pista è via Pasqua, via tu, Cristian. Adesso sono vicino, diciamo, via Mores. Ah, via Mores, cosa? Va al monte, sì, dai. Ho capretto, vai. E mettere il mezzo a pallone, quello deve essere. Va bene, avanti a tu. Ma sei forte qua, la verità, non c'ho problemi. Io lo sento bene, ma la grande tu, io. E a me è bene, ascolti, Cristian. Io sono la grande, bene, Ah, va bene, no, ok, anche tu arrivi abbastanza bene. Oh, ma so, ma. Guarda, non ti posso dare il segnale perché c'ho la... questo svizzero che dà cazzate, sono le... se la segnale la metà. La radio è super 5, non preoccuparti, ok. Avanti, a tu. Gappa, gappa, non c'ho problemi, vai benissimo, vai. Anche qua, alla grande. Gappa, si sa perché stasera dovete stazionare un pochettino alte. Beh, ne ha dato il biglia prospera, ai nobili. Sa l'umidità magari, insomma, anche a me fa così, l'umidità sicuramente. Beh. Avanti, Cristian. Cristian! Cristian si è bloccato via amore, sera. Cristian! Boh. Non lo so. Gappa gappa. Oh, yeah. E quindi, Mari? Andendi, Sì, già sta andando, ma ottimo, ma tu, va benissimo. C'è Sara che fa un po' atteso, no? Quanti ti dici, l'asciuga capelli. E il minimo sono 2000 watt, minimo, perché l'asciuga capelli e il forno e lo scalapaglio non vai. Purtroppo se lo si asciuga però è un casino anche. Ma da asciugare subito. E già fa veloce, dai. Meglio asciugare, sono i capelli bagnati, ne provoca qualcosa, dai. Hai l'influenza, quello della torcia, qualcosa provoca. Meglio si asciuga un capo, se no guai. Capa, è meglio sì. Oh, mamma mia. Oh, così. Anche per me così. Non è parente. Va vento, boh. Questa è l'aria. Il segnale è perfetto qua, eh. Il segnale è ultimo, va bene, la radio è super 5. Vediamo se c'è Cristian. Oggi sono bene, io sono benissimo, non problemi. No, ma è che non mi senti bene, che sicuramente sta... Ma vento c'è qui. Sicuramente c'è oscillazione nell'antenna, è per quello che mi fa così. Non c'è l'antenna, io sono la sassa che giù le macchine. Adesso non c'è l'antenna. E la va bene, va. Grappa. Vediamo che arrivo fortissimo con la zona. Sono io con la in macchina, con la magnetica, guarda che più piccolo sono io, Anto. Il più piccolo, io sono ottava, sono piccolo, bianco e nero. Vero Cristian? Mica tanto. Nero, da piccolo mi sono. Ho capito, forse ci siamo su. Io sono piccolo, bianco e nero. Quando sto arrivando? Tu qui, sei là, qui, sono in una retretta. Io sono ottava, Io sono vicino all'Hotel Marini. Sì, lascio dove sei, lascio. Ma lo sai dove sei? Ah, sei anche informato. Informato, eh. Sono ogni domenica c'è da fondazione, sì. Ah, ok, dai. A pescare, vai. No, avevo una cosa da amici. Va benissimo, dai. Quando sei passaggio passa qua, ti prendiamo, ti bevi un bel bicchiere di birra fresco, là. Avanti, a tu. Cappa. Cappa. Adesso mi arrivi di un messaggio. Due minuti. Prego, tu, va tranquillo. Antonello? No, forse mi siete solo urlati, Cristian, avanti? Guarda, non mi sento, mi ha tutto grigia, come la base messa c'è troppo un po'. Io? una foto grigia e non so, vabbè, io sono all'interno di Marie, all'interno. Ma passi vicino a me, passi. Ecco, se passi vicino a lui. Ok. Ma passi, a troncato la fai? Fai San Giorgio. Quindi così è. Se fai San Giorgio o su qualcosa. Sì, vieni avanti e poi gira il puntino, dai. E poi è obbligatorio passare davanti al mio cancello. Per andare alla Marina, diciamo. Eh sì, eh. Ma non lo senti tanto bene, oh. Ok. Ah, capo, è già un grido allora. Stai tanto, scusa, È in via Pascoli, ci sono i palazzi. E sposta i palazzi, Cristian, spostali. Magari, vabbè, spostati anche, Oh, quasi tu i palazzi si devono allontanare. No, c'è la casa, quella c'è con il cuore, non posso spostare i palazzi. E comunque mi sento abbastanza bene lo stesso, dai. Ottimo come radio. C'è un baracchino di Trinity, secondo me fa un po' di Trinity. Anche perché è il mio, un baracchino di 13 e l'antenna di 14, dai. E la faccia di 9,20, se, onde sei? Ma non c'è questa, c'è anche per il ponte. Avrebbe due voci, Se vicino a te, Ciccio. Chiappa, non sei fortissimo, ma poco fa mi sei arrivato anche 9,20. Cioè, non sono facile a te, in realtà, Ah, vabbè. Ma di cosa è abbracciato, si può dire quasi. Beh, oggi non sei lontano da me. Allora, Ciccio, siamo vicini di casa, si può dire, mi continuate la telefonia. Anche ultimo notte non andrà a gabbicciuia. Perché devo prima arredarmi la casa, poi metterla. Ah, ecco. Aperta, non ti dà posto con il piano. Ah, ecco, ecco. Andi tu, stai tu lì, siamo piano. No, quella è casa d'appoggio, quando vado a mangiare lì, capito? Quando sono a lavoro qua a Sassari, mangio un panino, vado a casa e mi rimango un po', poi scendo da casa a Platamona, capito? Grappa, grappa. Beh, a Platamona abitate voi, vero? Sì, se sto lavorando tipo, in Via Roberto, a casa, non ti lo mangio, mi ricordo, la ragionetta come da lavorare, non faccio chilometri. Stai fischiando, stai. Adesso sto fischiando? Negativo. No, così, ma non fare che quando stavamo qui, c'è cioè, tipo sacro cuore, questa zona qui, vado a casa, mangio a casa e faccio chilometri in macchina per scendere a casa, capito? È meglio così. Meno male, è una casa d'appoggio. Sì. E si sta bene lì. Tranquillo, guarda, si trova Dio, silenziosa, rilassante. Ma dove sei? Mi leggo qui, Gio Cristian. Non lo sento più, mi prendo il capo. Ti ha detto che sei al villaggio grigio. No, io sono tra Platamona e Sassari. E si può dire... c'è Aspien Sardegna, c'è presente? Ma già detto, io lo sento in mezzo a quel rem, scusa, Ha detto dove c'è la spizzata? Buonasera! Buonasera a lei! Andiamo! Buonasera per alzato. Ok, io ne approfitto. Ciao Cristian, ben sentito, alle prossime, ciao Antonio, ciao Luca. Ben sentito, sempre forte, come al solito. Riprendi e correti per me, dai, che mi stiamo chiamando qua la cena, ciao. Ciao Marie, saluto alle prossime, ciao, vatti a tu. Capa, ciao Marina, ce la risentiamo alle prossime. Riprendi Cristian, ciao. Cristian è fuggito, ciao Marino, ci sentiamo, ciao Luca, ben entrato. Ciao Antonio. Ciao Bobucu, beh, sabato passato, Niente, se deve essere dubito, cosa ne so. Ti appasserà. Vabbè, non è un problema, guarda. Tanto vuoi parlare che io adesso ho messo da parte. Mi uso questo. Chiaro. Cristian. fai, caro caro? Aspetta a vedere un lavoritino da fare. L'altra mattina, chiara. Andava, riprendi a tu. Cappa, io devo fare un attimino di bianco e vado in bagno. Ci sentiamo fra un pochino, ok? Ok, dai, guarda, invece io sono fermo, a causa di forza maggiore. Vengo che sia un bel forte disegnare. No, io sono fermo a causa di forza maggiore, sul lavoro anche. Sei un bel forte, sei. Me lo so, Luca. Ehi, sai che pure devo entrare in bagno? Guarda, invece io sono fermo con lavoro, a causa di forza maggiore. E dove sei qui? Io mi vicino a casa, sono tu QTH. Sei forte anche qua. Va bene, mi stai ascoltando, sì. Io sono sempre bene. Io sono, diciamo, sono in malattia per adesso, dai. Ah, ecco. No, ho fatto una sciatica cintuata abbastanza forte con due nel disco, ti passa? Io già ci soffro una volta se ne mal di schiena. Lavori pesanti per me sono finiti. Anche se ogni tanto ci provo, ma poi mi blocco, se tu vuoi guadagnare la giornatina, ci devi provare, però lo devi fare. Mi sono comprato anche quei cerutti, quelli che riscaldano, là, che durano 12 ore. Un po' te lo fa passare, ma non è che sia questa grande medicina. Guarda, io sono andato lì, vedi, all'ortopedico di Stano, guarda la diagnosi. Lombosacralgia, accentuata gamba sinistra con più due nel disco e le 4 nel 5. Io non volevo fare fisioterapia lo stesso, li racconti, mai chiamato. Da quando è subentrato il Covid, boh, mai chiamato mai. Ripeto, allora arrivo subito, vado anch'io a QTH piccolino. L'epidemia del bagno c'era. No, no, io sono già andato in bagno, va tranquillo. E tutto in bagno stanno andando, mi. A dove non posso attaggia, Non è quella ci vediamo con la sorte, per non vorrei passare, è un incubo. Lo so. Io già ho i dolori intramuscolari dalla psoriasi, quindi figurati tu. Devo pigliare antifiammatori parecchie volte. Come mi ha detto, diciamo per la verità, in faccia in faccia, sia il 50% dell'operazione. Guarda, vedi tu cosa mi fa. Figurati, aspetta un attimino, arrivo subito. Controllo la carne, 2 minuti. Sono pronto in bagno, dai. No, non stanno in bagno, stanno a comprare le fettine perché si bruciano. Se no stanotte mangio carbone. Senti il peperoncino che sano. Luca, ci sei?